essere importante, ma vabbè, lascialo, vogliamo, lasciamo perdere. Allora, perché se voglio dire fare, comunque, quella importante è la cosa segnale il tuo. Mio? Quella importante che c'era l'altra volta, la cosa segnale il tuo. Ecco, non vuoi dire io. Vedi, è come funzionano. Ma che si può accusare la nave di sviluppo nel faccio segnali? Capisci? Non avete proprio capito niente. Quel segnale lì era vicino a lui. No, ci vuole molto. Molto poco ci vuole a scoprirlo. E poi per le mani varie. Poi mi ragionati e tu non sono io, non sono io. C'è un pezzo che hanno strumentazioni, vedi. Ma tu. Occhio, non so se me la fai, però dico, sono persone che hanno strumentazioni che ti dica di avere subito, all'istante. Ma quello che voglio io, è quello che voglio, così posso anche sbogliardare qualche persona pure. Perciò, vedi un po'. Non c'è problema, stato una membra, io ora una volta che ha piccato, quello che ci vuole non ha prestato un amplificato, ma dopo usano. Ma 100 non mi ricordo, non volare. Ma tu usatelo così e lo fai funzionare un po'. Vabbè, dammelo. Poi sono messo d'accordo con una persona. Io non faccio nulla, gli ho detto, guarda adesso cosa faccio. Mi ha attaccato l'amplificatore con il, come si chiama, il Nava 48. Nava 68 ci avevo, Nava 48. Attacco. Faccio scaldare bene. Ma tu però dici, ma la porta va, come importante, non fai da nessuno. Sì, ma ci credo. A me di questi problemi qua non me ne metto, perché io ho un antenno, un baracchino, di questi problemi non me ne metto. Parlava solo Claudio e Franco, che hanno un bacco in tavola, vediamo quando mi passava. E io, te la metto d'accordo con te, ma ti ripeto, io ho un baracchino e un antenna, punto e basta, capito? Io sono una chiave antenna, no, perché no, ma può farti capire, ma non è una putinda, non è una putinda correnti. E queste belle parole ci sono sempre state, sempre. Questa cosa la facevamo Massimiliano, ma non è così, perché? Perché la facevamo così contro di lui? Questo non lo so, capito, non lo so. Assolutamente. Ma guarda, è un ricordo. e mi faccio i miei secondi di bianco. Ma è così, sono gusti del cazzo, posso dire francamente, non so cosa è bene da fare. Sì, ma c'è gente che lo fa. Vedi, c'è gente che lo fa, ma dico, io mi domando, dico, ma che gusti ci prendi tu? Che gusti ci prendi tu a mettere il bottato, quando c'è un QSO, cioè, ma dimmi, cioè, che senso ha? Dimmi, tu mi devi spiegare che senso ha? Quello che stavo dicendo io poco fa, non è meglio di dire. Massimiliano, tu mi hai rotto le scatole, così, così, fa la giostra che mi fa vitermo, non è mica. Ecco, bravo, quello che dico io, c'è qualcosa o qualcuno che ti dà fastidio, non chiami. Ma quattro occhi, si va in un angolo, si discute, si parla, è tutto qua, ma a mettere portanti, non ha senso. È solo un gioco da ragazzini, a te forse i ragazzini non si comportano così. Cosa vuoi dire? Che ognuno si diverte come vuole. Vabbè, che si divertava come vuole, no? Però dico una cosa, uno si può divertire come vuole, però non la roba delle palle agli altri. Quello che è vero, perché si vede, non ve la mette solo a lui, che ce l'ha con lui. Rompe le scatole anche agli altri, poi gli altri si stufano, ancora, cioè non lo capiscono, poi gli altri si mettono in mezzo. Grazie. però anche i televisori. Vabbè. Io non so, adesso mi ricordo chi. Senti, con digitale ti disturba. No, la buona anima di. Adesso non c'è più. Diciamo di casa di Antuna, dai. Macallè, no. Fa con la notte, boh. Casino. quello che vuole. Ma io ho fatto l'anno che sono bucato, io amo, che bello il fatto, mi finisco fuori questa finestra, posso lui, mi attacca la chiesa. No, io l'ho quasi fatta. No, questo mi stava facendo un po' di travedini anche, perché mi sono finito l'abri con una giusta. Di questo bolognese, tu funghi, ha conosciuto i funghi, quei trifolati, ma la reti so, fria, che la bocca brutta. Invece ti rimani due o tre e hai fatto la zena. Oi oi. Aspetta un attimo che ho fatto una pizza, devo già attaccarla in terra. Vai, vai. Compagnia di diritto c'è un mattino assentato e fa schietto lo stesso, fa con bianco. Ma io stavo quello, passo il dito, cazzo di me, ora no. Poi smetti di andare. Ma abbiamo smontato tutto quanto, però non usare niente, sono anche l'altro. Ma sono pulito sopra il vetro. E non va così, almeno male. Ma più non va, scusa, gli ho abbassato, non va male. Ma sopra non bene. Ma va, io ne è stato veramente in gamba, ma credimi. Ma non immaginavo, ma tu non ci è uguale, fidati. Ma tu si ammazzano, cioè, così, è come così per così, come sta parecchio. Ma c'è su, uguale specificato, uguale, uguale, uguale. Ma infatti, non ci è uguale, ma non ho voluto niente la verità. È stato veramente in gamba, ma va, persona, Gianni. Santiago 1. Senti, a me il dottore. Te lo sento. Prova a preparare. sento bene. Io provo a levare un po' il guasto, dai. Ho una. Adesso mi senti bene. Meglio, Santiago 2,5. Ti sento un po' meglio. Ma ho sollevato di altri 5 watt, dai. Faccio di più. Cosa? Mi ha portato 5 watt. Aspetta il vostro aspetto, là. Così vediamo, guardi. Adesso si è salito a 3. Parla un po' benissimo, mi senti adesso? Ehi, adesso sì, Santiago 3 e Radio 4. Si pare 9 e 10 adesso. 3 Radio 4. Radio 4 negativo. 9 e 10, 4 ore. La radio è più pulita, non è i colori sottofondo. Invece quando prima sei mullato avevo due di sottofondo, almeno un segnale di 9 di abbondante, dai. Salito a un centinaio di fatto, adesso ho molti portatori, già va bene, qualche giorno già c'era un po' di preparati per il collegio, ora che non è un pezzato, ci vorrò fare i servizi, ma chiederò, diciamo, se ci sta una gara di macchina, si chiederà. No, è un casino, ma te non lo faccio adesso? Ma tu ho portato anche, era poche parole, un fulmine, ma ha fatto la carica certa, per rame, di non rispondere. Addirittura, la spaccata. No, c'è, era sceso un fulmine proprio, e ho fatto l'anno scorso in inverno, e l'ho spaccata, e c'era proprio la carica prefatta, per rame. Come Claudio, una volta, stavo volando, si è sbagliato, ha attaccato non so quanti chilo qua, ha bucato la mano qua. C'era un buio il pezzo, la frase di sotto, che mi seguivano dei pezzi, si è fatto un buco come grande, non c'è la lesina. È brutto, c'è la strada così, dovrebbe raggiungere 2 km, con piccolo così. Ma poi non sono risalito alla misura giusta giusta della carica, in particolare l'ho fatta un po' più lunga perché qui c'è un po' stazionale, più su e diminuisce, no? Quindi già ne ho un bel po'. Però comunque già peccato la radio, peccato, ma è una cosa, come si chiama? Gli apparati che accediamo rientra nel vicino, quasi guai, anche con un guasto, lo sembrano per sé. Cioè, io, infatti non è di sopra, ma ci siamo in tutti i balli, ma scusa, non accetti in digitale lì? Sì, ma è un problema, allora, anche qui lo facevo, ma il problema era che ha attaccato a me, lo stesso che siamo, con roba di un bacio, mi ho analizzato ed era il trasmissiatore tirato con la mia 5 decibel, il tuo trasmissiatore l'ha attaccato, l'ho messo a metà per te, è roba che richiamo anche nel portovale, gli ho detto, può toglierlo un giorno che accende, adesso quando c'è il nostro amico, un giorno, magari ci va l'anch'io e le guardiamo. Non lo faccio anche in palle, va. Ma io ho avuto delle guerre qua, e guarda, neanche ti immagini. Lasciamo fare, va, siamo fuori. È un casino. Perché posso dire, tra l'altro perché non l'ho tagliata, ma... E a me me l'avevo fatto da parecchio. Quando mi ho iniziato a modulare, me l'avevo tagliata. Poi non l'hanno tanti giorni. Ero anche lì, lo stesso che ho detto a volte. Non sembrava che ti applicava, ma lo stiamo a modulare, quindi, le ricezioni, nazionali, per i comici, mentre ho visto che eravamo tagliati, poi stavamo parlando là per la televisione, ho detto che non sentirei nulla. Però seconda volta l'ho riparato, poi la terza ho dovuto comprare il nuovo. Sì, vabbè, ero un po' caduto tutto, cioè sono andato all'antenna, tutto, palacino, tutto, come parlava il palacino, c'erano 200.000 lire, boh. Ho fatto palacino, microfono, alimentatore, antenna, e tutto il capo è rimasto, 200.000 lire, ma ho preso un motorino, pensando, ma che ho provato, ma io avrei sentito tante volte. Attivo Drago, te lo ricordi? Drago, Attivo Drago, mi ha dato un culo a Falcone. Ah? Ma quando ha preso il culo a Falcone? Beato, fratello. Che casino, Che casino, madonna. Buonasera per ascoltato. È positivo questo apparato. sentirmi adesso sono uscito, voce su adesso. Allora sentiamo anche se c'è la chiesa o il camion? No, il camion in casa so. Va bene. Arriviamo anche a Macomè anche oltre.